droga. Mamma mia. Ciao Giulio. Ma con Manuele vai? No, con Manuele no. Perché devo andare tutta l'altra parte adesso, a trovare mio figlio. Me l'hanno saltato quello posto lì, capito? Ho capito. Mi hanno chiamato. Ce n'è bisogno loro, se la piglia oggi. Sto qualche giorno da mio figlio. Devo portare anche roba, giustamente. Un po' di roba sono caricata in macchina. No. È roba che c'è anche da sola, capito? La televisione, roba del genere. So. Vabbè, Giulio, ripeti. Ok, ciao Tony, ciao Gianni, e quanti ce ne sono? Sì, no, a me me l'hanno annullata invece la cosa, la visita domani, Tony. Mi si va a casa, una cosa incredibile. È lottata da diversi giorni dalla CUP, ieri mi hanno telefonato, dice non ci venga perché dice siamo chiusi. E di Maria, urlaio di Maria, come fai a essere chiuso se sono stato prenotato dal CUP? Come hai fatto poi tu a sapere che io dovevo venire da te se non hai la prenotazione? Una cosa incredibile, a un istano questi. A me comunque mi hanno reso l'altro pagamento, giustamente, a proposito mi hanno chiamato, ho fermo per stasera, certo, non si preoccupi, poi mi ha richiamato, quando ero già vicino, mi ha detto, allora sta venendo perché si è liberata la macchina, ha detto sì, sono all'incrocio della morte, lui non ha capito, comunque arrivo là, mi sono presentato, e così, un fulmine, un razzo, già qua. Sei dato che era già vicino. Ma è incredibile. E bello è questo, che nemmeno a pagamento lo posso fare. Perché non le fanno, tutti chiusi sono. Incredibile, Gabu. Non è possibile. Ma la cosa più bella è questa, la cosa più scandalosa è questa, che la clinica mi ha messo di fare questa controllo qua, no? Allora avevo telefonato al CUP, avevo telefonato e mi hanno prenotato, mi hanno dato il giorno 10, che sarebbe domani, alle 10 a Olistano, perché sa salire al tutto chiuso. Beh, ieri ho ricevuto una telefonata e anche stamattina di non andarci perché dice siamo chiusi, non li facciamo perché siamo tutti chiusi. Poi come si è permesso, dice il CUP, a prenotargli questa visita? Ma dimmi tu, come ti permetti tu a dire certe stronzate? Perché il CUP serve per quello, per prenotare le visite della gente. Incredibile, ragazzi. Vabbè, dai, mi prendi già, lo voglio monopolizzare per queste deficienze. Magari, proprio come ti dici tu, magari conoscevano qualcuno e gli hanno dato un po' posto. Al posto di far andare a te, fanno andare qualcuno in cuzzato. È possibile, sì, è possibile anche quello, certo. Non è da escludere anche quello. No, ma è bello questo, che nemmeno a pagamento, ho detto, ma io lo voglio fare anche a pagamento. Siamo tutti chiusi, 300 euro tanto, nel frattempo, per fare a pagamento. Ma non me ne frega niente, detto, io i soldi ce li ho, a me non me ne frega niente. Io voglio solamente fare il controllo. Fatto, aspetta che già lo richiamiamo noi, e Rando, ma già mai? Fra un mesetto, vai, è fatto ammazzare, vai da paura. Dai, Tony. Ma non ho capito a pagamento, no? A pagamento hai tutte le porte aperte, perché io ho notato che viene a pagare subito vai giù tutti gli anabiti. Scusa, ma che ministro devi fare, se non lo ricordo? Devo fare l'attacco, devo fare, non le fanno, no? Non le fanno, sto dicendo, tutto chiuso, alzata lo stesso, tutti chiusi. E poi non lo fanno i privati, non sono tutti che lo fanno, perché devo fare in maniera normale e col contrasto anche, oltretutto. Adesso stamattina ho fatto un'altra visita, grazie a Dio tutto a posto, diciamo che sono anche tranquillo. Però questo è un ulteriore controllo che l'ospedale mi ha assegnato, che avrei dovuto fare per poi portare l'esito all'ospedale stesso. Punta da va, non te lo fanno perché dice che sono chiusi. Che le sale diventano a uova uglia tutti tanti bari, questi bastardi. Oh, guarda Giulio, che centro benessere mi trovano anche l'attacca, È vero, la fila vera di enti, la gente è fianta. Prova a chiamare lì, centro benessere a Pratamona. Cosa fanno lì? Cosa lì non le fanno? A Pratamona fanno altre cose, non le fanno lì. Lo fanno negli ospedali, le fanno queste cose, oppure nelle cliniche private, ma quelle attrezzatissime. Ma a Sassari non c'è un ambulatorio privato che faccia l'attacco col contrasto. Se è normale sì, però col contrasto non lo va puro, e dunque non te lo fanno. E poi tutti gli altri. navi sono tutti chiusi, tutti indistintamente. Una cosa incredibile, la bocca. E ho fatto la risonanza magnetica stasera, a pagamento, era già fatta. Mi ha dato appuntamento a Perugia e sono fatto, tutto qua. Oh Gianni, a te puoi far girare per un pomeriggio che parcheggio. E vabbè, a me invece l'altro giorno, lo sto facendo a Giulio, sono andato, dovevo fare prima la radiografia e poi portarla su al quinto piano, ortopedia, a fare la visita. Allora sono andato il primo che c'ero, dalle 8:10 ero lì, alle 8:15 apriva, alle 8:15 gli ho dato l'impegnativa, una volta che gli ho dato l'impegnativa mi è uscito un tipo, mi ha detto no, questo esame noi non lo facciamo, come non lo fate? Se l'ho fatto una volta, un mese fa. No, questo qui con la misurazione noi non lo facciamo, se non è che mi si fa togliere misurazione, allora sì che lo facciamo. Allora sono dovuto andare in ortopedia, andare dal dottore, aspettare che arrivasse perché non era ancora arrivato. Ho aspettato che arrivasse il dottore mi ha cancellato questa cosa che ha detto che era una fesseria, dai, che era solo per misurare se la gamba era uguale all'altra, e tutto lì. Però vabbè, dice si può fare anche col metro, non è una cosa. E fatto sta che mi ha cancellato questa cosa, sono dovuto riscendere giù, mi hanno fatto la lastra, ho dovuto aspettare di nuovo il dischetto, e non è che me l'hanno fatta subito, ho fatto la fila giù, poi ho dovuto fare la fila anche su, e invece che finire alle 9:15, come ho finito l'altra volta di fare tutto alle 9:15, ho finito verso le 10:30. Oh, ciao a tutti, sono Star Wars, sono entrato, scusate se disturbo il posseo, era solo per, volevo fare i complimenti a Fabio Master che ho saputo che stava regolando e sta uscendo benissimo. Ciao Riccardi. Se è così è da ora che ci mettete l'antenna a Fabio, così almeno avrò modo di ascoltarlo anch'io. Ciao Riccardo. E abito Tony com'è la situazione, il bello è questo, che per fare l'attacco che devo fare io, ci è voluto intanto il controllo cardiologico, ci è voluto, no? E intanto di quanto io la pagamento quello, ma non me ne frega niente, io so di dicevo, oh, quella voglia me ne puttana, ma di che cosa. E più un altro esame, l'esame della creatinina, se 22 euro, 72 euro che io non avevo motivo di spendermi, però ripeto, non solo piangendo i soldi, nella maniera più assoluta, però la presa in giro, perché per me quello è la presa in giro, tu a me mi fai fare 15 giorni, in attesa mi fai fare gli esami per poterti portare le analisi giuste che ci vogliono per fare questa visita, e poi tu mi telefoni invece che non l'ho fatte. Ma come mai? Perché il cupo? Sei stato per colpa a dirmi che l'unico stellare aperto, gli unici stellari aperti sono Oristano, Nuoro e Cagliari. E allora lo posso prenotare per Oristano, perché gli altri lo stesso sono impegnati. Va bene, accetto la prenotazione. Va bene, d'accordo, tutto fatto. Beh, lì arriva la telefonata, forse dall'ospedale di Oristano, dice non ci venga perché dice che non lo stiamo facendo, perché siamo chiusi. Invece non balde, non so se arrabbi. Vai Tony. Comunque Giulio, allora, sappi una cosa, che il CUP è una cosa che lavora con il computer identifica tutto. Se tu hai l'appuntamento tramite il CUP, lì non può sbagliare, non può rimandarti nulla, dato appuntamento è quella sacrosanta. Vai, metti pace e denunci, ma stiamo scherzando. Ma se sono una massa di disgraziati, di delinquenti, quelli che ci lavorano a queste divise, perché lo sappiamo, l'ospedale è fatto, tutto gli incursi è fatto, perché non lo sappiamo. Magari c'è qualcuno importante, figlio di qualche prostituta, gli sa legà, e gli hanno fatto, gli hanno dato il mio posto. Ecco qual è il discorso. Bastardi, delinquenti. Ecco, ci vuoi fare. Purtroppo. Cioè comunque poco fa è entrato Fabio e dice diamo controllo, ha fatto Santiago 2 e del 5 dice cavolo, come Santiago non fa così basso, e domani mi stai mandando fotoscala. Dai Gianni. Oh, uscivo un bel forte, cazzo, se era lui non l'avevo quasi riconosciuto, uscivo un bel forte. Sì, era lui. Quel ragazzo che ha parlato poc'anzi, io per la prima volta l'ho sentito, ma era oltre il 9:10, era oltre il 9:10. Così almeno lo sentivo anch'io, tutte le volte, soprattutto la notte, quando fate il quesio io sono all'ascolto sempre, e e tutte le volte che vado a lui io devo proprio subire il QRM e basta, senza, con le cuffie tra l'altro, no, perché giustamente sono a letto e c'è la televisione di mia moglie qua che è accesa e anche lì con le cuffie e dunque io non posso nemmeno parlare, se no avrei, ma stavo pensando addirittura quasi quasi mi faccio una prolunga e me la porto giù nella sala e così la notte posso partecipare anch'io. Però non commentare inutile, che adesso era un casino del diavolo alla fine. Vabbè, comunque. Avanti Riccardino. Meglio non ricordare. Riccardo era solo il passaggio. Ok, vabbè, dai. Ma altra gente c'è oltre a noi? C'è Lupo Grigio. Lupo Grigio lo sento. Ciao Lupo Grigio. Mettiti l'antenna perché sennò non ti sento. Purtroppo, io ti rilancio, ma aspetto quando poi mi rilancio a me di nuovo. Avanti Lupo Grigio. Lo senti? Non ti sento. Ok, Lupo Grigio, dai. Buon coletti, ci sentiamo dopo, allora stavi bene, avanti già. Ehi, ciao Lupo Grigio, ci sentiamo, buona serata, anche a te buone commissioni, dai, non spendere troppo. Lupo Grigio, alle prossime. Ciao regalo. Se mi ha chiamato poco fa, Riccardino, non ha risposto. Mi ero allontanato, scusate, perché mi hanno chiamato, perché avevo detto, scusate se ho disturbato il QCO, sono solo entrato per fare i complimenti a Fabio che si è messo l'antenna finalmente. Era ora, così almeno lo posso sentire, Riccardino, era ora. Grazie, stavo aspettando già da 3 mesi che io riuscissi a sentirlo. Adesso poc'anzi quando ha chiesto il controllo l'ho sentito e mi arriva anche molto bene il segnale, va bene, facciamo girare, vai Gianni. E io qua lo stesso arriva molto bene, ma soprattutto di radio era forte di radio, usciva benissimo, non bene, benissimo. Riccardo. C'è Tony. Ma tuo padre è già in pensione o ancora traboccando sta? Babbo. Ehi, tuo padre? No, ancora no, sta lavorando. Ok. Già ho capito chi è, tranquillo. Capito chi è? So anche che trabacco fa. Ponga. Eh? Mi esponi, dici. No, non mi sa dire frequenza, dai. So che è una divisa. Non è più. Non è più? No. Allora fa un altro trabacco. Stato. Cosa è Riccardo? Babbo si è spostato, non fa più quell'impiego. E così ha trovato di meglio, sta meglio forse. Vabbè, come dire, scusa Lupo Grigio, non è per offenderti, ma deve fare come Fabio, che si è messo l'antenna finalmente. E Fabio era mio, sinceramente, ma che cavolo, sempre più più arrivava. Giulio, e allora, che mi racconti? Allora ti racconto, sono incavolato per questo fatto qua, io domani sarei dovuto andare a Oristano, così avrei definito questa situazione. Adesso appena che aprono qua, mai di meglio né mai da notte, vado e me lo faccio a pagamento, non me ne frega niente di spendere 300 euro, cosa vuoi che me ne frega? Però interessante che poi io abbia controllo per essere più tranquillo, anche se oggi mi hanno tranquillizzato i dottori, che tutto è a posto, io ho avuto un'operazione importante un anno fa, Tony, dunque non è una cosa così da trascurare, è il nostro semipiego, per cui grazie a Dio sono riuscito a risolverlo, i medici me l'hanno risolto, però bisogna stare sempre sull'ultima là, bisogna stare sempre sotto controllo fin quando non passa quel periodo. Io sono già un bel po' di tempo, ma devo continuare. E questa visita di adesso, questa tacca, serve soprattutto per continuare il percorso della terapia che dovrei fare ancora. Ecco qual è il problema, ecco perché sono un po' incavolato con questa gente, Tony, tutto lì. Ho capito, lo so, da fastidio, perché aspetta, poi, l'ultimo minuto. Niente, l'ho telefonato con la settimana scorsa, via Centro Venezia, che ho chiamato per riposte al cupo, non c'era mai posto, siccome io ho questo cavolo di problema del linee di disco, e ti chiudo, non lo hago, non è che un cane. Niente, ho chiamato Centro Venezia, mi ha dato appuntamento, dice privato, sì, 150 euro, non mi interessa, ok, va bene. Oggi sono andato, l'ho fatto, tranquillo, guarda, sono tranquillo, veramente. Adesso venerdì vi darò l'esito, ok, dopo io posso fare tutto il letto, vedere se andare a cadere e fare quella famosa lezione sul professore là, anzi mi ha fatto tutto una male. Anda bene, e già riprendi. Vabbè dai, se trovi qualche cosa qua vicino o giù, però fa qua vicino almeno, dai. Ce ne sono di centri, di cose, l'ho fatto è da Urigo, da tutti quelli che ci sono, quello di via Roma, magari lo fanno, capito? Perché quello di via Roma con contrasto mi sa che fa qualche cosa, però non so se è quella di visita. No, assolutamente, non sono cose che fanno così in radiologia, no, assolutamente. È tutta una visita diversa, particolare, ti fanno stendere sul lettino, ti passa una macchina sopra e ti controlla la parte del corpo dove deve essere controllato, non è così, non è roba da Urigo o roba dell'altro, come si chiama, Medici, Bebale, Bucco del Via Roma, non me lo ricordo. Per cui, se te lo sto dicendo, sono tutti chiusi, nemmeno il Parlamento lo posso fare perché sono tutti chiusi. Io adesso non è che aspetto il cupolo, appena il primo ambulatorio, o meglio il primo ospedale che sento, che apre, accidenti al fatto del coronavirus, oppure perché magari il problema è stato proprio quello, il fatto del coronavirus, hanno chiuso tutti. Appena che si libera questa storia, io non me ne frega niente di andare a pagare 300 euro, ma anche 500, che siano tutti. Interessante, voglio avere il risultato, voglio sapere, perché mentalmente una persona sta male quando non sai effettivamente quello che ti riserva la vita, in poche parole. Per cui, insomma, non è una cosa di poco conto. Qui non è che stiamo andando a curare una frattura o una cosa, qui stiamo andando a curare un apparato digerente, una parte importantissima del corpo. Ecco qual è il discorso, perché l'attacco te la fanno per tutto l'addome, te la fanno, ecco come. Vabbè, comunque, speriamo bene, vogliamo che ti dica. Avanti, Riccardino, ci sei? Riccardino è andato a mangiare il pane con la mortadella. Avanti, Tony. Cappa. E c'è sempre uno che cerca la madre, ma la madre non c'è qua. Vabbè. E cosa ti dico? Dimmi giù, non ti parlo da Giacomaro, che intanto non le vale la pena. Io posso che a te, a posto tuo, mi sei nato, fate foto, l'avrei denunciato, perché il cupo è il cupo. Lavora tramite il computer e non può fare la cosa che te ne fatto. Poi. Ok. E allora già. E poi il fatto di avvisarti solo due giorni prima, di non avvisarti in tempo, di modo che tu possa trovare qualche cos'altro. Magari adesso è chiuso, sì, però magari poteva farsi un giro per vedere se qualcos'altro l'ha trovato. Invece così l'hai dato due giorni prima e ciccia. Vabbè dai, gruppo grigio non c'è, se ne è andato via, se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. 27075, canale 10, operatore doppio rumo, avanti. E allunga ancora, già, punto 00. Provo a dire anche quello. E vabbè, comunque, cosa vuoi fare? Purtroppo è così, Tony. Non sappiamo come funziona la sanità. Ma l'altra cosa più curiosa, la sapete qual è? Io stamattina, quando sono andato in clinica, sono andato attrezzato di mascherina, di guanti, eccetera, eccetera. Intanto ti fate prendere la temperatura lì all'ingresso, eccetera, vabbè, d'accordo, ed è giusto che sia così. Ti chiedono che cosa devi fare, loro all'ingresso hanno l'elenco di tutte le persone che si devono presentare in quel giorno, e anche l'orario. Se tu arrivi per dire un pochino prima, e io per un pochino intendo anche 10 minuti, un quarto d'ora prima, non ti fanno passare. Aspetta, devi arrivare per salire da qui all'ambulatorio dove devi fare questa visita, per dire ci vogliono 3 minuti di percorso. Ecco, ti fanno partire a quell'ora lì, perché sopra, su, nel reparto, non deve essere affollato nella maniera più assoluta. E è giusto così, ma io lo sapevo questo, sono andato in orario, sono andato giusto, sono appena che hanno guardato l'elenco, sì, vada pure. Ecco, sono salito subito, per dire no, ma davvero quando sono salito ero unico, nell'androne ero solo, c'è un ambito lì dove c'è la sala d'attesa, e ero l'unico. Dopo 5-6 minuti, forse 10, anche sono arrivate altre due persone, però per un'altra cosa, non per la stessa visita mia, per cui vedi bene, no, un'organizzazione quanta cosa c'è, però è inutile se tu fai l'organizzazione e poi le persone non le curi, ma che senso ha? La prima cosa che mi hanno detto, guardi, i guanti li può anche buttare via, perché è più igienico senza guanti. Ma ci siamo 3 mesi che stanno tutti quanti dicendo lavatevi le mani, mettetevi i guanti, usate il gel, usate l'itto, usate la buiva, a voi vale via la dubbia, e poi mi viene a dire i guanti non li deve buttare. Vai tu e capisci di questa gente, ho già. Sì, l'ho sentito anche a televisione che portavano più problemi che altri guanti, che basta mettere, o se non c'hai diciamo il sapone per lavarti, basta mettere quel gel che sanifica e basta, tutto lì. Va meglio che mettere i guanti, così hanno detto. Sì, ma sapete cosa? Ce l'avevo anch'io nel borsello, il gel, d'accordo. A parte il fatto che quando entri in ospedale, la prima cosa che fanno è il gel, la temperatura è il gel, primo. E io me lo sono messo lì all'ingresso, avevo i guanti, quelli sottili, e me lo sono tutto formato bene, addirittura anche nelle braccia, perché sono andato con una maglietta a maniche corte e me lo sono formato tutto, sono salito su. La stessa cosa, di nuovo quando sono andato al reparto, la stessa cosa. Di nuovo, già, e allora lì mi hanno detto, i guanti li può buttare via. Perché? Perché dice sono più igienico senza i guanti, dice. Interessante è disinfettarsi così col gel o con altre cose e poi magari lavarsi continuamente le mani. E io tra me e mi butto un biglietto appresso, mi butto con un rubinetto e ogni 10 metri mi lavo le mani. Non è possibile, ragazzi. Purtroppo è così già. E vabbè, che cosa vuoi dire? La signora prima lo mandano Donì, comanda. Dai Tony. E non lo sai che è così, la carità, vabbè, ma c'è la biglialucci, vabbè, io ho fatto questa risonanza che sono obbligato nel senso perché prima la salute, e io sono di un riguardo su queste cose qua, assolutamente, né nel mangiare e né nella salute, ripeto, sai cosa vuol dire, a camminare un po' e poi ti devi fermare, c'è il dolore del disco che ti prende dal sedere fino a tutta la gamba, fin giù, è un casino, sono lago, non è che un cane guarda il dolore, e non mi possono operare perché sono cardiopatico, e vabbè, quindi niente, con questa risonanza mi hanno detto questo fisioterapista che conosce questo professor di Cagliari, ce ne sono due, una Udiana a Cagliari, se non conosce questo di Cagliari, quello di Udiana ce l'hanno conosciuto molto bene, che ha mandato altre persone e si è trovata bene, che ti fa una stenazione nella schiena, però non ci arriva la midolla, capito? E arriva la colonna vertebrale dove c'è il disco e te lo rimpicciolisco. Vabbè, vediamo che funzioni poi. Purtroppo è così, e cosa ne va? Ma io non sto pensando a nessuno, i soldi a me non mi mancano, grazie a Dio ho un conticino o un conto grosso, tra virgolette, ce l'ho, per cui non ho visto che mi riguarda assolutamente. E poi ho anche la pensione, io, mia moglie, eccetera, eccetera. Per cui non è un problema, i soldi per me non sono un problema, assolutamente. Ma non a livello di 300 euro, ma a livello di molto di più. Comunque, un altro discorso questo. Figura che se io penso a andare a fare le visite per non spendere i soldi. Io vado a fare le visite per salvaguardarmi la salute, poi i soldi non me ne frega per niente. Avanti già. E mi stavo organizzando per farti una rapina giù. Io ti posso dire altrettanto, io soltanto da quando mi sono fermato per sto cavolo coronavirus, dovevo stare fino al 18 luglio a casa, pagato ovviamente. Non dico male che dai primi di maggio io ho speso già 6.000 euro in cartate. 6.000 euro nel senso dei mobiletti che mi sono autocostruito per passare il tempo. Ho comprato quello, ho comprato quell'altro, tante altre cose. Io, grazie a Dio, ero una canzone da regalia, non me ne ha fatto da provviso, non ero stesso. Ho la mia pensione, giustamente, e anche i soldi che lavoro. Ma non è quello il problema, ti dico questo, la salute, Giulio, io non guardo i soldi, perché la salute è la prima cosa. E mangiare idem, poi lo svizio, sì, giustamente ci penso. Se mi piace la cosa me la conto, capito, la soglia gira la lunga, tutto qua. Appunto, è quello che le dico io. Cosa te ne fai tu se non hai la salute, per dire, no? Prima la salute, e se i soldi ce li hai, e possono servire per la salute, che ben venga, non ci mancherebbe altro. Eppure, che ci cose sono come senti io. Adesso io le entrate io, non è un problema. Così anche pagare l'affitto, lascia perdere, anzi casomai nel ritiro affitto, casomai, proprio vogliamo essere più precisi, per cui è quello il discorso. Ma comunque, lasciamo perdere questo discorso. Comunque ho notato una cosa, da quando hanno liberato che si può uscire, la frequenza è diminuita, l'affollamento non è più, vabbè, comunque, non so se è meglio o se è peggio, comunque è così, avanti già. Ma era già calcolato che fosse così, Giulio, l'avevamo già calcolato, che quando riprendeva la gente usciva, si andava a portare una mangia assicerata, eccetera. Poi d'estate è stato sempre così, se tu ti ricordi anche gli altri anni, se uno col caldo che fa starsene chiuso in casa non è il massimo, dai, se ne scende giù, si fa una passeggiatina, va a Plattamona, va al Ghelo, insomma, cerca sempre di prendere un po' d'aria buona, dai. Beh, quello sì, non ci sono dubbi, perché io, se per cosa anch'io faccio così, però adesso ancora io non sono uscito da quando è successo questo discorso, se non è scelto per andare a fare le visite o a prendere la persona addirittura ogni due mesi, perché non ci vado, ho messo in mente, non è il caso, non me la fuce nulla, vuol dire no. Però adesso, intanto le giornate ancora non sono proprio caldissime come deve essere l'estate. E poi magari la passeggiata me la faccio, ma me la faccio la sera io, non vado io dietro a punirmi sotto il soleone, no? La KBD, non ho più l'età io per stare in spiaggia seduto lì come un bucalotto o sotto l'ombrellone a farmi arrostire dal sole, ma non ci penso proprio. E domani vado la sera al fresco a mangiarmi un gelato o a bere una bibita, questo sì, non ci sono dubbi. Una bibita, ho detto, non una birra, no, una bibita, perché io sono assolutamente astenne al 100%, per cui, e questo è un altro discorso ancora. Va bene, avanti Tony. Cappa, io già ce l'ho già per Twitter, dottore Capoletta non ce l'ho. Pensa, quando mi serve la medicina, chiamo il dottore sul telefono, me lo manda via mail. E poi automaticamente con la mia stampante vi tolgo la ricetta. Ecco, molto ci vuole, dai, dai. Va bene, signori, io mi sposto perché adesso mi devo preparare anche qualcosa a mettere sotto di tutti. Perché sono già le 8 meno 10. Ma giusto, ma puttito. E già mangiato un taglio. Va bene. Da caso, se accendete l'otto più tardi ci sentiamo dopo cena. Ok, ciao Gianni, ciao Giulio, eventuali ascoltoni, ti apro qua nel canale. Guarda X da parte mia, ti ascolto. Ciao Tony, ciao, ci sentiamo, dai. Magari ci sentiamo dopo che porto il cane, magari accendo, se tutto va bene, se non è come ieri notte. Se no ci sono tutti a venire a dormire, o mi guardo il televisore. I gelati ti fanno male, non li devi avere. Oh yeah, te ne mangio uno al giorno, ma va bene, te lo preoccupare. Così è, va bene, no. Se te la fai tu, la terapia, avanti giù. Ok, ciao Tony, buona equazione greca per domani, allora, buon viaggio, ci sentiamo. Grazie per la chiacchieratina e scusa lo sfogo, però ripeto, oggi sono tutta cantata di così. un pochino, sì, no? Certo non me lo posso prendere con nessuno, per carità, ci mancherebbe altro, però sto sempre riflettendo con questa gente, nel sistema sto riflettendo, tutto lì. Ci sentiamo, ciao Tony, alla grande, alle prossime, dai, ciao, vai già. Aspetta già, oh Giulio, poi, un'altra questione, già lo sai, mi mandi un messaggio. Ok? Ok, vabbè, d'accordo Tony, d'accordo, va benissimo, ci sentiamo, ok. Avanti Gianni. Ciao. E allora, questa gente qui non ha capito ancora che non ha a che fare con le pedine, ma con persone che sono malate, che hanno bisogno di visite, eccetera. E vabbè, loro stanno in ufficio, non ha fatti nulla. E vabbè, io invece sono stato bloccato dal coronavirus per altre cose. E praticamente a me mi avevano chiamato a fare la riunione col principale, dall'ispettorato del lavoro, mi hanno rimandato già 4 volte e adesso glielo ho scritto al principale di se mi deve licenziare e pagarmi subito la cosa, la liquidazione, perché non posso usare città che si mettano d'accordo e cose. Adesso già fatto il sindacato, ha fatto un recupero crediti e dal prossimo mese mi dovrebbero mandare i soldi. Maledetti, ma è una cosa impressionante, cazzetta, la disorganizzazione o il menefreghismo, e anzi la parola più esatta è quella, il menefreghismo di certa gente, non è possibile, cazzetta, non è possibile. Però tu senti Roma intendo il governo, che si vanta la nostra sanità così, la nostra sanità qua, il nostro sistema amministrativo è fatto in questo modo, si vantano, poi agli effetti delle conclusioni di qualsiasi genere, sia burocratico che farmacologico o di qualsiasi cosa, insomma in generale ci sono sempre degli intuppi, e chi ci va di mezzo chi è? È sempre l'utente, sempre, una vagogna, veramente, qua comunque. Quando voi ti dica già interessare lì a rodere sul fegato, intanto la vita ha ragione, il discorso non cambia proprio, però dà fastidio, se l'avessi potuti prendere a schiaffi, certe persone l'avrebbero preso a schiaffi, però un po' come per quello, per come veniamo trattati, da quello che ho pagato 60 anni di tasse, non è possibile la vita. Che se mi avessero conservato tutti i soldi che ho pagato in tasse eccetera eccetera, sarei stato ultramilionario, avrei avuto il doppio di quello che ho, il doppio, e il resto del doppio, non lo so, io fate il conto. E lo so, perché nelle mie buste paga a volte c'erano anche 400 euro di tasse da pagare. E niente, adesso che devo avere la liquidazione, stavano tentennando, adesso ho fatto andare avanti le cose io, basta, non è cazzo, cioè affari matti ci hanno senso il mondo. Meno male che io c'ho la pensione, se no chi sono stato questo di vano. Lo so, purtroppo è così già, purtroppo è così, figurati. 400 euro da una busta paga per un dipendente sono tanti, e pensami che solo di denuncia dei redditi, il mio giro annuale di denuncia dei redditi era sempre intorno ai 7,5, qualche volta anche 8 mila euro di denuncia dei redditi, tanto per darti un'idea, no? Se che ti puoi immaginare, tu mi dirai, ma vuol dire che c'era la cifra, certo che c'era la cifra, ma c'era anche il sacrificio, ed era il sacrificio fatto da me, no, e non da nessun altro, e 12 ore di lavoro, 13 ore, 14 ore, e anche durante la notte dormivo grazie ad occhi aperti pensando a quello che dovevo fare l'indomani, per dire no, tutte queste cose non vengono considerate, e invece ci sono certi bastardi, grazie a seduti a tavolino, si prendono una barca di soldi, vitalizi e ballevani, non hanno fatto niente nella loro vita, che se tu li metti grazie a pulire il sedere al bambino non ci sono buoni, cosa che magari noi padri l'abbiamo fatto quando avevamo i figli piccolini e lo sappiamo fare, questi non, nemmeno quello sanno fare, anzi non sanno pulire nemmeno loro, il loro culo, non se lo sanno pulire, eppure prendono una barca di soldi questi bastardi. Io lo so, gli artigiani sono così, io mi ricordo mio padre che pur di non rifiutare il lavoro si portava il lavoro a casa, si incollava le suole e l'indomani erano pronte per cucire, per consegnare il lavoro, capito? E mia madre mi diceva, stacca la spina, una volta che finisci, no Maria, io ho i figli da portare avanti, sono 5 e devo sfamarli, devo farli studiare tutto quanto. E non rifiutava mai nulla, si accumulava di lavoro e se lo portava anche a casa, capito? Ma non credo, sapessi quante volte sono rientrato anche alle 10 di notte io a casa, se sapessi, poi... Anzi, addirittura quando ero fidanzato, addirittura, pensa un po', quando ero fidanzato, le dicevo alla mia fidanzata, cioè a mia moglie oggi, le dicevo, vieni a trovarmi in falegnameria, perché devo fare un incollaggio. Anche lei prendeva il pennello e metteva a colla insieme a me, magari mi dovevo incollare, che so io, 7, 8, 10 porte pronte per l'indomani, in modo che durante la notte la colla asciugasse e l'indomani avevo io modo di proseguire e fare le porte, per dire, no, o dico porte per dire altre cose, pannellature, incollaggi di qualsiasi genere, eccetera eccetera, o addirittura verniciatura di qualsiasi genere, in modo che durante la notte, perché la notte è importantissima per queste cose qua, asciuga e domani tu puoi proseguire, e praticamente risparmiavi una giornata di lavoro se l'avresti dovuto fare l'indomani. Ecco qua il discorso già. Così faceva mio padre, faceva asciugare la colla, l'indomani cuciva le suole, le consegnava, capito? Per avere, se arrivava altro lavoro, per accettarlo, per non mandarli via. E purtroppo già ne ha fatta anche mio padre di cose, faceva quelle scarpe di campagna a mano con lo spago fatto da lui con la pece, lui, io mi ricordo tutto, ero piccolo ma me lo ricordo, portava la pece a casa, la scaldava, faceva un odore con la pece, la metteva nello spago che faceva lui e la usava per cucire quelle scarpe di campagna, di modo che l'acqua non marcisse la cucitura, capito? Sì, certo, era così, soprattutto che lavorava in proprio era così, non come oggi, oggi capita, invece a 40 anni, a 45 anni, a 50 anni, i giovani di oggi sono ancora a carico dei genitori, magari pensionati, con una pensione anche da morte di fame. Purtroppo è così, i tempi sono cambiati, tutto quello che vuoi, anche loro, i giovani, avranno ragione, perché alle volte non c'è lavoro, però la maggior parte dei giovani non ne ha voglia, questo bisogna puntualizzarlo, non ha gara di lavorare il giovane, nella maniera più assoluta, perché non è capace nemmeno, una volta a Sassa dicevano, tu non sei buono, ne manca pure la mano in culo all'aio, diranno così, imbecille, ecco come dicevano gli anziani, ed è, questo è un detto sassarese, ed è vero, è vero, tu un giovane di oggi le fai fare qualche cosa e non è capace di farlo, salvo alcuni naturalmente, non è che sono tutti così, però la maggior parte sono così, Ci vuole materasso appresso per loro. Tutti varati, ma nei drumiti, travagliando piano piano, e io lo vedevo dai miei colleghi, quelli che entravano nuovi, e non è compito mio, io facevo tutto, c'era andare in pescheria, andavo in pescheria, c'era andare al banco, andavo al banco, e loro, no, non è compito mio quello lì, capito? Ti rispondevano così, vai che c'è bisogno per dire in pescheria che c'è molta gente, ma non è compito mio. Andavano tranquillamente, giravano un bel vuoto, stavano girellando dietro il negozio, capito? Di modo che non li vedesse nessuno nel corridoio, che c'è dietro il negozio dove teniamo anche la merce e cose, se ne andavano lì, girellavano a vuoto, capito? Tutta la sera così stava. Sì, ma io li vedo tante volte, oppure stanno al bar, ai cicoli, senza un euro in tasca, ragazzi, aspettando che magari un amico che conosce lì, che gli offre una sigaretta o che gli offre un bicchiere di birra, magari dai, non è possibile, magari quello che ha qualche soldo in più in tasca. aspettano anche quello, lui sarà mappili. È diventato tutto un casino questa vita, parlomeno qui in Italia, all'estero non lo so se è così, ma suppongo che tutto il mondo è paese, per cui non è che ci siano poi tante differenze. Vabbè, dai già, sono le 8 e ce ne andiamo a vedere la preparazione della tavola qua per cenare, ci sentiamo. Ciao già, grazie della chiacchierata, alle prossime, dai. E speriamo che stanotte, se c'è questione, non ci sia il casino che c'era ieri notte. Vabbè, ciao già, ascolto il finale e poi chiudo. Ciao Giulio, dai, non ti preoccupare che prima o poi già lo fai questo esame, ma se ti hanno detto già che va tutto bene, non stare a preoccuparti per niente, dai. Già lo farai questo esame, prima o poi lo farai. D'accordo, dai, buona cena, buon tutto. Ok già, ma fate questo, che questo esame già serve per continuare il percorso di cura, ecco qual è il problema. Senza questo esame, quale cura ti può assegnare il dottore? Ecco, questo è che dà fastidio a me. Il problema è quello. Vabbè, comunque, aspettiamo che cosa lui ci dica, tanto non posso fare diversamente. Ci sentiamo, ciao già, grazie per la chiacchierata, a domani, dai. Io stanotte se c'è questo già ascolto come tutte le notti, ma speriamo che non ci sia casino come ieri notte, perché ieri notte mi ha proprio fatto schifo, Vabbè, ci sentiamo, ciao. Vabbè, speriamo che ci metta la mano sulla coscienza, che a me sono portate. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Io sto andando via a fare da mangiare il cane, pur uscendo giù, e poi ci sentiamo stanotte magari sul tardi, dai. E dai, ciao. Sono bello. Ehi. Chi è? Voglia. Tu voglia. Non ti accambizzei. Si odili. Vabbè, dai, sto andando a fare da mangiare a Taiso e poi scendo giù, dai. A oggi Luca ci siamo mangiati una coscia di pollo con un pezzo attaccato, sia io che lui, tutti e due. Una coscia di pollo? Col pezzo attaccato, quelle cosce grandi col pezzo attaccato, ce ne è presi. Ah, cazzo. L'ho fatta arrosto, a lui gliel'ho fatta senza sale, senza condimento, la mia invece l'ho fatta col sale, con tutto il condimento. Oh, si è mangiato tutto, manco un pezzo non ha lasciato. Speriamo senza osso. Cazzo. Della spolvero, non so bubacca da dare l'osso di pollo, non gliele do di nessun tipo di ossa, ma specialmente quelle di pollo non gliele do. Cazzo, quelle sono spille, o te lo mangio, lo mastico, spille di vetta. No, io glielo taglio, glielo tolgo con le mani, di modo che sento bene se ci sono ossa in mezzo, capito? Glielo spocco con le mani e poi le mani me le lavo. Per vedere se c'è proprio l'osso, non gliene lasciano di osso. La cartilagine mi puoi dare, no, ma non l'osso. Infatti con Marina adesso gli diamo la cartilagine, invece Luna non ha mai mangiato né cartilagine né osso, niente, mai. Almeno con me. No, io a te gliela do la cartilagine, ma la deve masticare bene, perché l'altro giorno l'ha vomitata intera. E allora ho detto, se la masticheggi bene è un conto, se no non ti do più. Che faccio le gude in due, capito? E allora io vado, dai, ci sentiamo più tardi, Luca, ciao anche a... non mi ricordo come si chiama, Emanuele. Come mai c'è questa voce tutta battuta, Emanuele? Mi sembra battuto. Che c'è Luca, dai, fatevi una cialamidata, ciao. Tutti scappati siete? No. E beh, stavo parlando con Fabio al telefono che mi ha detto che ha messo l'antenna. Come va bene, non l'ho sentita. Non l'ho sentita. Spero che vada bene adesso, perché almeno si fa sentire da un po' più di gente. Stai fischiando di brutto. Cosa hai toccato, Rita? Sto fischiando. Ma la stai usando, è quella carta? Sì, sto fischiando. Aspetta, spengo questo. Sto fischiando. No, adesso non poco fa, sì. Il trio acceso, scura. Stai attento. Ieri non l'hai provato il trio? Tutte le cose che prendo. Vabbè. Dimmi tu. A 5 a 7 fa, mi segnali. Prima a 9 e 5. Non ho capito, quant'è? 5 a 7. Ma... va bene? Senti, sto parlando, ricordo. Prova. Ma due, tre pro, ma le tre pro radio, adesso sono aumentato. Ma stai fischiando. Sì, 9 e 5. Ma 9 più 25, Luca. Ma cosa vuoi che ti dica? E anche suo framudolo pure, anche appena appena, cioè vabbè, abbiamo entrato tutti e due a Vicenza, ci avete lo stesso segnale, quasi 9,3. Ma è stato 5 watt, 7 watt, l'altro ne dà 20. No, vabbè, non sto confrontando, sto parlando, adesso poco fa era più basso, poco fa era quasi 9,20, adesso è 9,25 con i picchi positivi. Fischiando. Ma scusa, cosa hai toccato, Riccardo? Io non riesco a capire, perché non lasci le cose come erano? Hai toccato il Mickey Game, cosa hai fatto? No, ho toccato niente, Davide, niente. Come mai sta fischiando? Spiegamelo tu. O c'è qualcosa vicino, non lo so, qualche radio accesa c'è. Come? Sempre fischiando, cavolo. No, adesso non sta fischiando. Prova a premere bene il Mickey Game quando capita, e poi stai attento quando tu alzi un po' la potenza di non toccare anche il Mickey Game, che lo sollevi, perché hanno lo stesso tasto, il potenziometro, il carrier del Mickey Game e la potenza del coso, dell'apparato, e il Mickey Game sullo stesso tasto, per cui stai attento quando sollevi. Ma ho spento solo la luce. E stai di nuovo fischiando. Io non ho toccato niente, non ho mosso un dito, sto cliccando il PCT e basta. Ma scusa, è il timer questo? È il timer. E il volume del microfono quando ce l'hai? 5. A 5, allora abbassa un bel cacchio, ritardi è troppo 5. Vabbè, va meglio a 3. Mettila a 2. Così va bene, 1, 2, 3, prova. Non toccare niente, a 2 va bene, lo devi tenere a 2, con la 5 è esagerato, perché cavolo devi fare? Cioè, qualche volta lo usavo a 5 e andava bene, adesso stavo fischiando, spero di non fischiare di nuovo. Ma a 5 lo usi quando vai in banda laterale, in SSB, qua in AM lasciala a 2, va benissimo. Ok, K. E adesso c'è qualcuno che chiama sotto, avanti chi chiama? Non c'è nessuno. Ok, ci siamo solo io, Luca e tu, Riccardo. Mi pare che gli altri sono tutti deceduti. No, sono orecchie di porco. Arecce di bocco in Sassarese. Tu in Sassarese un po' lo capisci, Luca. Vedi, Luca, Riccardo. Ma non ne capisco molto. Ho babbo di origine, di dove? Di dove? Babbo è di Sarule. Quindi parla il sardo. E tua mamma di dove? Mamma è di Alghero. Quindi peggio che mai, non c'è nessuno che ne parla a casa tua di Sassarese, magari qualche parolina, io e me, cose così, magari riesci a capire, il resto no, perché nessuno di loro due ha il dialetto come prima lingua, del Sassarese. No, a casa non c'è nessuno che parla Sassarese. Neanche nonni, nonna, nessuno c'è? No, niente. Ehi, a Massarule ci vai, ci sei mai andato? Sì, ci sono andato quando fanno l'autunno in Barbagia, sì, ci sono andato diverse volte. Bello, c'è anche le castagne, ci sono delle Massarule, no? Sì, sono le castagne, c'è anche un po' di roba, è interessante, è bello. Sì, già lo so, la Barbagia è bella. Ci sono passato vicino, dai, non ci sono andato neanche, mi propongo di andare quest'autunno in Barbagia perché è bellissimo, poi fanno i fuochi, le cose, ti danno da mangiare. Cioè, cos'è il piatto tipico? Anche torrone c'è a Sarule. Non ho capito. C'è a torrone come dolce tipico, c'è il torrone o dall'altra parte sono? No, sono dolcetti sardi lì da quelle parti. E comunque ho anche parenti lì. Me lo immagino, se tuo babbo è lì di quelle parti, me lo immagino, no, ma sono bei pozzi, poi magari rimangono un po' tristi, dai, ma se ci vai nella bella stagione, cioè, è bello vedere tutta la cosa, il contesto, quelle zone. Io sono andato in Barbagia 2 stati fa, è bellissimo, ci sono dei posti, neanche mi immaginavo, veramente bello. Già lo so. Quest'estate, se Dio vuole, ci rifacciamo un giro da quelle parti di lì. Ok, Luca, riprenditi il mic. Non c'è nessuno. Fabio, ho sentito un attimo un'oretta fa, dai. Però poi ha detto un controllo, però ero un ascolto, stavo facendo roba, non so neanche. Fabio, stavo parlando prima, stavo parlando dell'antenna nuova e mi ha detto che uscivo un attimo a fare le compere e tornava subito a casa, stava tornando, perché gli ho detto, ma ti stai disturbando dopo un po', perché mi sono dimenticato anche di chiederglielo, e sono a fare compere, e così gli ho detto, fai, quando torni ci sentiamo via radio. E beh. Me è Nattarino Alfa 1. No. Oh. Ce lo giudichiamo noi il decoder. Eia. ce la gettiamo noi da cos'è? È vero, lo vedi, è vero. Cos'è il tuo ritardo di nota? No, che sta vendendo il suo decoder, quello che aveva comprato da poco, e lo devo mettere nel camper, e mi serve, e quindi lo prendiamo. E il TV SAT sta dicendo? Sì, il TV SAT. Ma gli tira anche la scheda, mi immagino, Natale conferma. Come? Gli dai anche la scheda? E per forza, del decoder. Se l'attivano, io non l'ho attivata perché se no becca il segnale quella parabola. Cosa, se no me l'avrei tenuta io. Scusa un attimino, quindi tu non te ne vuoi intervistare? No, me le hanno staccate, non le possono staccare le antenne mie. Se mi toccano le antenne, vi sto denunciando immediatamente, mi pagano i danni. Cosa guardo? Se non prende il segnale la parabola, non ci posso fare niente, è un vicolo chiuso qua, troppo stretto, e deve essere che chiuda. No, Fabio non è riuscito a trovare Hotbird, capito? Ma scusa un attimino, c'è qualche palazzo che ti fa ombra, qualche cosa? C'è il palazzo di fronte che mi fa ombra, sì. E c'è anche un albero che dice che dà fastidio, mi stavano dicendo. Boh, io non ne so, non me ne intendo. Io l'ho piazzata con le mani senza strumenti né niente in campagna. E funzionava benissimo. Qua non c'è il verso di prendere Hotbird. Bisogna che ci sia uno che se ne intenda, magari, e sappia come fare. No, scusa un attimino, se c'è un palazzo che ti fa ombra, le soluzioni sono due: o sposti il palo da un'altra parte o ti metti più distante, nel senso da quello che ti fa ombra. È presente che il coso, il segnale arriva dallo spazio, non è come un'antenna, diciamo, digitale terrestre, per cui deve essere, non arriva in orizzontale, diciamo, il segnale è dritto, diciamo, parallelo al terreno, più o meno, relativamente il discorso non è molto generico. Questo arriva dal satellite. Se c'è un palazzo o qualche oggetto, qualche struttura che ti fa ombra, le soluzioni sono due: o spostarti, allontanarti da questa struttura, o sollevarti. Ma anche molte volte un metro di altezza, per cui riesci a coso. Si può fare la prova senza attaccarla al palo, con le mani sollevi la parabola e vedi con lo strumento, naturalmente si aggancia. E io non ne ho strumento, ce l'avevo ma non so dove è andata a finire, se non l'avrei fatto. Ma il palo, scusa un attimino, molto alto dove c'è la parabola? No, non è alto, è nella finestra, al primo piano. Ma che cacchio, se tu lo metti a fianco all'altro palazzo, per forza che non ho già capito dove sei, allora non può mai ricevere, dire. Non riesci a metterlo sul tetto in modo da scavalcare, sei troppo in basso, dai. Vabbè, se potevo salire sul tetto, noi risalto giù a Dimiru. Anche l'antenna del baracchino mi avrei piazzato sul tetto. Ma non ci posso salire, è quello il problema. Ma tu, la casa dove abiti tu, un unico piano o ci sono piani sopra? Tre piani. Ah, ok, ho capito. No, io pensavo fosse un piano basso e basta, che fosse un piano terra. Io sono al primo piano e poi ci sono due piani sopra di me. Solo che il tetto è marcio. Se io salgo e rompo qualcosa mi fanno pagare tutto il tetto. L'ho capito. Non lo so, le soluzioni sono spostarti da lì, andartene da qualche altra parte. E il palazzo che c'hai di fronte, che ti disturba, è molto lungo. Quanto è il mio? È proprio il palazzo di fronte che mi disturba. Poi bisogna vedere se isso, se l'inclinazione è giusta. Io non me ne intendo di queste parabole. Io quando sono andato ho seguito le istruzioni, l'ho piazzata senza strumento, subito ha preso il segnale, il coso, via, in campagna ne avevo due addirittura di illuminatore, prendevo sia Astra che Hotbird, capito? Adesso non ne ho parabola né niente in campagna, cosa deve essere libero. Mi hanno detto, se no non prende. Vabbè, ci sono anche altre soluzioni, volendo. però è un po' più complicato quando ci sono questi disturbi qua. Si può lavorare in diversi modi, c'è anche la soluzione di mettere un'antenna, vabbè, bisogna vedere quanti dB c'hai di segnale, se c'è, che intensità di segnale c'hai tu, oppure ci sono altre possibilità, se, sempre che non sia talmente in ombra la parabola, perché se te la metti in ombra devi per forza spostare o sollevarla, però se entra appena appena i dB sono bassi, però magari mettendo una parabola un pochettino più grande, piegando appena appena, spostando il focolo della parabola eccetera eccetera, è capitato di ricevere anche girando, siccome sono parabole, queste parabole sono fatte, si chiamano offset, perché sono con la, sono leggermente schiacciate, non sono esattamente circolari questo tipo di parabola, molte volte ruota, vabbè, ma sono cose troppo complicate, si fanno solo con lo strumento, non ci riesce, a quel punto è preferibile sollevare il palo, si riesce a sollevare, non ci riesce a innestarli, tu c'hai quei pali a L attaccati alla parete della finestra tua, confermo. Ehi, a quello lungo ciò. E beh, scusa, non puoi inserire nella curva un altro palo di un metro, più o meno, due metri? E penso di sì, che si possa fare, lo inserisci nella parabola, e la parabola è punta. Allora tu spiegami, c'hai un coso, una curva a pannello, a parete attaccata, confermi, a 90 gradi? Sì signore. Nella parte superiore dove tu fissi la parabola, li puoi innestare un altro tubo di lì dentro e ti sollevi quanto vuoi tu, non troppo perché poi oscilla, almeno un metro e mezzo, ci riesci, li metti un palo infilato dentro, glielo blocchi e guadagni, ed è tanto un metro di altezza di differenza, non sai come riesci, molte volte basta a metro metro di spostamento e se riesci a entrare nel fascio del satellite è fatto. È come il sole, tu devi fare riferimento al sole, per dire c'è, cioè, una certa ora il sole c'è l'ombra, ti fa ombra al palazzo, in un altro momento, se sei fortunato, basta alzare anche di un metro il palo. Non me ne intendo, dovresti vederla tu la parabola, se va bene o se bisogna cambiarla, capito Roberto? È inutile che io, come lo vedi tu te ne accorgi, tu che te ne intendi, io purtroppo non me ne intendo. E tu per questo motivo ti stai vendendo TV Sat, da cosa? Se non piglia, cosa devo fare? Ma là ti metti digitale terrestre? No, la, io sto ricevendo con le antenne, il digitale terrestre sto ricevendo, con le antenne TV, capito? Tanto non me le possono toccare. Ieri è salito uno sul tetto e ha cambiato un'antenna di loro, capito? Ne ha tolto una vecchia e ne ha messo una nuova, deve essere, avrà cambiato anche l'amplificatore e tutto per non disturbarlo io col baracchino, e le antenne mie le hanno lasciate perché non le possono toccare. Che io ho il foglio qua da internet che mi dice posso piazzarle in proprietà altrui anche, e siccome la parabola, le antenne sono piazzate 2 o 3 anni, canto bisogna di più, c'era il coso, comunque gli ho fatto le fotografie, l'inquilino, c'era un inquilino che me le ha piazzate lui sul suo palo, non sono salito neanche io a piazzarle. E due qui, anni, questo qui se n'è andato e il padrone di casa, però per vendetta deve essere che le vuole battogliere, però deve essere, si è informato e l'ha detto non le tocchi, se no quello si fa pagare i danni. Sì, no, vabbè, ma se c'è il digitale terrestre non hai problemi di ricezione, fregatela la parabola a quel punto. Io pensavo che non riuscissi a prenderlo col coso, col digitale terrestre, considerando che sei chiuso da palazzi, un teore un po' sacrificato. No, con le antenne TV prendo tranquillamente, c'è l'amplificatore, tutto su. Poi c'è solo l'alimentatore, però se il segnale pure è debole, perché se tolgo l'alimentazione all'alimentatore non si vede più il segnale, hai capito? Vabbè, è molto sacrificata quella donna, già lo so, ma è tutto dall'altra parte. Ok, Riccardo, avanti a te. Nathalie, non ti preoccupare, che tanto te l'ho detto, la prendo io, non farti, perché stamattina hai detto, c'è qualcuno che vuole una TV Sat, la prendo io, non so da dare a dirlo di nuovo. Le parole sono parole, testimone io, Nathalie, guai a te. Noto che se... Quanto lo stai vendendo? Vediamo se lo stai fregando, dai. 120 euro. Io l'ho pagato 150, è nuovo in scatola, c'ha due giorni quel decoder, non so se rendo l'idea. Chiamata I can. È buono, è un buon decoder, svizzero, ce l'ho avuto anche io per altre cose, però è un ottimo ricevitore, c'ha una bella sensibilità, è fatto bene, è costruito bene, c'ha anche l'alimentatore esterno a 12 volt, per cui lo può attaccare direttamente nel campo, non c'è bisogno di fare nessuna modifica. E infatti, cavolo, ti pare che andavo a fregarlo, c'è lo scontrino e tutto, no, non ne dico cavolate. Ma una domanda, sicuramente HD, se l'hai comprato recentemente è un HD. Eia, è giusto, se te lo sto dicendo, c'è anche la scheda TV SAT che vuole ancora attivata, quindi se l'attivano loro quando prendono il segnale, no? No, scusa, aspetta, non ho capito, è HD, quindi c'è le cose HD, perché TV SAT io ne ho due, uno normale e uno HD. No, questo è HD, in alta definizione. Ok, dai, io ne ho due dischette, sono stato uno dei primi che ha avuto il decoder TV SAT, la proprio primi ce l'ho, sa che quanti anni ce l'avrò, la fidanzia dice una quindicina di anni ce l'ho, guarda appena uscito. Aspetta Riccardino, zitto qui, cosa c'è? Basta. Oh, l'antenna mi stanno buttando, corri la carina. Mamma mia! Ti faccio picchiare da Riccardino, così impari. Perché tu sei qui col comane di lui. Ma io non sta qua col comane di Curte. Mi allugami. Diglielo che gli ho fatto la foto, c'è su Facebook, può commentarlo. Ehi, cavolo.